Ci sono tanti modi per parlare di donazione e credo sia importante trovare formule nuove che arrivino al cuore della gente, ad esempio utilizzando insieme alle parole la musica e le voci. C'è un progetto fresco di Stampa che si intitola Tutta colpa dell'amore. In linea con noi il suo ideatore Roberto Ferri. Benvenuto. Grazie per avermi, per ospitarmi. Buongiorno a tutti. Sì, questo è già il secondo lavoro, il titolo generale è Artisti per la donazione degli organi. Prima era il primo progetto che è già stato pubblicato, era Ti amo anche se non so chi sei, è un brano originale che era cantato addirittura da Ranieri e in quel progetto comparivano da Lucio Dalla a Fiorella Mannoia a Gianni Morandi, a Franco Battiato e quello era stato il numero uno. Visto l'interesse al tema e visto il fatto che il nostro scopo era quello di diffondere la cultura della donazione degli organi, abbiamo fatto anche questo secondo progetto al quale tu ti riferivi nella domanda, Tutta colpa dell'amore. In cui, mi scusi, lei ha messo insieme scrittori del calibro di Henry De Luca, Dacia Maraini, attori come Piera degli Esposti, Carla Gravina, Anna Mazzamauro e ha aggiunto anche le musiche di Battiato e di Dalla. Esattamente, sono tutti testi originali, che vanno da testi in russo, chiaramente c'è la traduzione, in quanto si tratta di un libretto insieme ad un audio CD formato WAV, quindi il libretto sono 100 pagine e c'è anche l'aspetto, diciamo così, è un'opera multimediale, ci sono anche le illustrazioni del pittore Leonardo Santoli, quindi in definitiva ogni volta che penso ad un progetto so già a chi indirizzarmi, so già chi mi dice di sì. Infatti Franco Battiato mi dice sempre Roberto è impossibile dirti di no. No, allora invece a proposito di dirmi di sì, andiamo, mi dica di sì, sentiamo un piccolo estratto, Bitola, il testo e recitazione è suo, di Roberto Ferre, musica di Anton Berovsky. Che è un macedone, un violinista macedone, sì. Andiamo a sentirlo insieme. Ok, grazie. Un giorno mi sono accorto che la poesia mi aveva lasciato. E nell'andarsene mi aveva creato un grande vuoto. Occorreva riempirlo nuovamente se volevo continuare a vivere una vita decente. Dovevo reinventarmi e farmi aiutare. Avevo un fegato nuovo da salvare e conservare. Non ho provato vergogna nel chiedere aiuto ed ancora una volta ho trovato quelli che come me volevano trasformare il niente in qualcosa che avesse un significato da offrire alla gente. Signor Ferri, lei da 4 anni vive una seconda vita, perché lei ha ricevuto un fegato. Ed è stata, diciamo così, una grande fortuna, perché in fondo mi è stata data la possibilità di vivere in effetti una seconda vita. Consideri che ci sono persone che non festeggiano più il loro compleanno naturale, biologico, ma festeggiano un compleanno, diciamo così, per la ricezione dell'organo che hanno ricevuto. Quindi a me è successo questa cosa all'indomani del mio trapianto, il chirurgo che è famosissimo in tutto il mondo, il professor Antonio Quinna, mi chiese, sapendo che io sono anni che lavoro nell'ambito artistico, mi può dare una mano a diffondere la cultura della donazione degli organi, perché noi abbiamo bisogno di persone come lei che ci diano la possibilità di parlare di questo che è il nostro ambiente. Ho detto va bene, lei mi metta in piedi, infatti in 10 giorni mi ha rimesso in piedi e io mi sono votato, tra virgolette, a questo tipo di discorso. Certo. Cioè donare un organo richiede una certa cultura, non si può pretendere, anche perché dietro a questo gesto d'amore ci sono delle forti, diciamo così, componenti emotive e quindi è questa la difficoltà. Infatti sì. In apertura oggi il professor Remuzzi diceva è inutile portare i nostri organi in paradiso, il paradiso sa che servono qua sulla terra. Esattamente, esattamente, anche perché si buttano via delle cose importanti, però proprio per questo ci sono dei centri che prevedono degli psicologi, certo, per cominciare a preparare le persone. Ecco, non dimentichiamo che una persona come Zuckerberg, cioè l'inventore di Facebook, sì, questo succede negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, ma arriverà presto in tutto il resto del mondo, visto che ha 900 milioni di iscritti, in ogni account, fra le varie informazioni c'è scritto organ donor, cioè tu dichiari lì se sei un donatore di organi o meno. Signor Ferri, io vorrei far ascoltare, sì, un altro piccolo estratto di Tutta colpa dell'amore, ricordando che Tutta colpa dell'amore si trova in libreria e i proventi, sì, del CD, al netto delle spese sostenute, verranno devoluti agli organismi medico-scientifici specializzati in questo campo. In particolare hanno dato il patrocinio all'iniziativa La FIRE. La FIRE è la Fondazione Italiana per la Ricerca in Patologia, l'Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato Gozzetti Onlus e l'EPAC Onlus. Andiamo a sentire questo breve estratto, un testo scritto appositamente per Henry De Luca, vero signor Ferri? È scritto da Henry De Luca appositamente per Piera degli Esposti, in quanto sia Henry De Luca che Piera hanno sposato questo progetto, che è il diffondere la cultura della donazione degli organi. Ho visto il sole dentro una pozzanghera. Ho ricordato di quando calava nello scavo della fognatura a mezzogiorno. E sulle parole di Henry De Luca saluto Roberto Ferri, ideatore di Tutta colpa dell'amore, per sostenere attraverso parole, musiche e testi la cultura della donazione. Grazie Roberto Ferri e complimenti. Grazie Nicolette, grazie a voi che ci avete ascoltato e grazie a Radio 24.